Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Katy Perry, Miko, Cause I'm all that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Buon appetito, baby. Non c'è nessuno dietro Dovi. Non c'è nessuno Dovi. È a 3 secondi e 8 quell'altro. Marc Marquez, falle con rilassatezza queste curve. Tutti in piedi sul divano per questa storica doppietta del Dovi. È una dovietta, più che una doppietta. Dovi Power, Dovi Power, Dovi Power, dovizioso c'è. E vince il Gran Premio di Catalunya 1-2 dopo il Mugello. Grande Dovi, commovente. Balso pure stranissimo, non saprei interpretarlo perché è una gara stranissima, un weekend stranissimo, ma per tutti. Siamo riusciti a vincere perché siamo stati più intelligenti a capire i limiti della pista delle gomme, non perché eravamo più veloci. Nadal da 10 e lode vince il suo decimo Roland Garros. Lei è molto vicino a Federer. Quantomeno lì a ridosso del podio, va dentro deciso, cattivissimo a prendersi la quarta posizione. Bellissimo. Lewis Hamilton va a affrontare l'ultima chicane, zizzagando, va sul traguardo per festeggiare la vittoria. Lewis Hamilton vince per la sesta volta in carriera. Meno uno da Michael Schumacher, il Gran Premio del Canada, un weekend alla Lewis Hamilton. Sì, sapevamo che non era una partita facile, anche se affrontavamo lì Liechtenstein, però tutti quando facciamo qualificazioni mondiali nessuna partita è scontata e nessuna è facile. Abbiamo dato il massimo come ogni partita, però l'importante è che siamo riusciti a vincere e a fare questi 3 punti importanti. Che bellissima domenica che abbiamo vissuto ieri, cominciando dal mattino che aveva il bronzo in bocca dei ragazzini dell'Under 20 nel mondiale in Corea del Sud, poi la Ducati che è la nazionale rossa delle due ruote, poi la nazionale rossa quella delle quattro ruote e Vettel che ha vissuto una domenica tafazziana, ma adesso ne parliamo subito con maestro Leo Turrini, poi la nazionale quella di calcio che ha fatto fuori Liechtenstein. La domanda è: ce la facciamo o no il 2 settembre a Madrid a battere la Spagna? 800 24 00 24, convocazioni aperte fino alle 15:30, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Poi abbiamo un sacco di video, allora ci potete vedere sul nostro canale YouTube, sul sito radio24.it, sulla pagina Facebook radio24, e da oggi c'è anche la pagina Facebook tutti convocati trattino radio24, quindi se avete preso nota ci potete seguire video ovunque. Carissimo Leo Turrini, ciao. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tu dove ci guardi i video in diretta? Ma io adesso cercherò di sintonizzarmi sulla diretta Facebook. Facebook. Se ho capito bene, perché voi siete molto avanti, siete un po' come la Mercedes a Montreal, voi di tutti convocati. Qua avete reagito alla grande, cosa vogliamo dire? Non lo so. Cosa vuoi dire? Io l'ho detto prima, Vettel mi è sembrato un po' Tafazzi, dai. Beh, allora, guarda, io credo una cosa, seriamente, che i mondiali si vincano anche così, riuscendo a mettere delle pezze a delle situazioni disperate. Perché dopo 5 giri Seb era ultimo, era fermo con me sulla Pero Cormano, e quindi voglio dire, c'era la concreta possibilità di infilare uno 0 e di ritrovarsi alla fine della domenica a pari punti con il nero. Io penso che quello che il tedesco ha fatto in rimonta sia stato assolutamente straordinario. In particolare penso al modo in cui va con la forza della disperazione all'assalto delle due punte del Palermo, che sarebbe poi la Force India, no? Cioè, Perez e Ocon lì proprio all'epilogo della corsa. Ecco, io, siccome si è parlato tanto di paragoni nel weekend, Hamilton ha eguagliato le pole di Ayrton, in quella manovra di Vettel ho rivisto il caro vecchio indimenticabile Schumi. Guarda, noi stiamo vivendo un campionato, tu non c'eri perché ne manco eri nato, tipo 97, 98, 99, sì, 2000, 2000, quando ogni gara era uno spasmo perché la Ferrari non aveva una macchina nettamente superiore alla concorrenza e Michelone ci metteva sempre del suo e ci teneva lì incollati alla televisione. Ma però Leo, proprio per questo tu mi devi aiutare a capire perché, certo, perché Vettel è partito col freno a mano tirato, perché tutti se la prendono con Verstappen, però no, allora senti, dobbiamo fare un ragionamento molto concreto. Verstappen ha fatto un numero, una partenza alla boia di un Giuda che conferma tutto quello che abbiamo sempre detto di lui, che è un talento naturale impressionante. Questo olandese ha il piccolissimo difetto, se vuoi, che corre sempre come se in pista fosse da solo, nel senso che lui poi sulle conseguenze che le sue manovre fantastiche possono avere sui colleghi non è che rifletta più di tanto. Secondo me, certo, Vettel non ha avuto uno scatto dei migliori, ecco, questo sì, però sta, io vorrei citarti un grande esperto di automobilismo che si chiamava Frick Antoni, ce l'hai presente? Come no? Era un ingegnere che si dedicava occasionalmente alla musica con gli Schiantos e una volta ebbe a dire con un'acuta osservazione tecnica che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Perché? Perché Verstappen fa questa manovra, il contatto con la rossa di Seb è veramente qualcosa di infinitesimale, eppure è sufficiente a rovinare l'ala anteriore della Ferrari. Cioè, talvolta sono anche i dettagli, gli episodi. Certo, dopo fare il totale. Però Leo, aspetta, io ti faccio sentire Toto Wolff che è al di sopra delle parti. Lui su Verstappen c'ha un'idea. Per me sì, sono Sebastian o il capo della Ferrari, sono arrabbiato, ma Max è così, guida molto duro. Ce lo teniamo così, perché ci fa divertire a volte. Per me la Formula 1 è un sport duro. Hai capito, no? Ha detto io se fossi il capo della Ferrari sarei arrabbiato. Praticamente, e questo mi preoccupa un po', è la stessa cosa che ti ho detto io prima con altre parole, cioè Verstappen è un talento naturale straordinario, corre, ripeto, come se invece di essere sulla Pero Cormano in coda in mia compagnia fosse su una pista ma da solo, cioè lui non calcola mai quello che può capitare, diciamo così, all'avversario, però è anche il bello della competizione. Infatti io non sto dicendo che Verstappen ha commesso una manovra illegale, capito? Però ha ragione, c'è un amico che scrive Verstappen si sente intoccabile. No, è intoccabile. Un pochino, sì. Insomma, sai, è tutto sua mamma, come io dico sempre, perché io ho visto guidare suo padre, era un pippone. Lui ha imparato dalla madre, che pare che ai semafori tra Rotterdam, Amsterdam, eccetera, schizzasse via come un fulmine. Però, insomma, nell'economia di una stagione, se vogliamo poi allargare la riflessione, queste cose ci stanno. Allora, prendi l'Hamilton di Monte Carlo, no? Era stato sfigato al sabato quando l'incidente di Van Dorn gli aveva impedito di mettere la macchina nel Q3, no? Poi in gara, partendo da dietro, è rimasto imbottigliato, ha fatto peggio di Vettel in Canada, perché alla fine ha chiuso settimo. Quindi ieri, in un contesto diciamo così molto molto complicato, Seb se l'è cavata meglio, ha portato a casa i punti del quarto posto, è ancora davanti nella classifica. Sì, ma questo va tutto bene per voi che siete ragionieri. Tu venerdì ci hai detto che in Canada avremmo rivisto forse la doppietta della Ferrari, forse. Poi parliamo di Raikkonen in versione Pisolo. Adesso arriviamo anche al mio idolo, il Santo Bevitore. Che ha dormito. Io ti vorrei citare Lucio Battisti, al quale ho dedicato un paio di libri nella mia giovinezza. Una volta Battisti andò in televisione a un programma di Renzo Arbore e lo contestavano come Vettel per la gara di ieri, per la partenza eccetera, no? E gli muovevano delle critiche e lui si girò verso il pubblico e disse: ma scusate, quello che io faccio, suono, propongo, vi emoziona o no? Allora io dico la stessa cosa: la rimonta che ha fatto Vettel ieri vi ha emozionato o no? A me personalmente tantissimo. Poi è chiaro che quello che ci è mancato a Montreal, che lo aspettavamo tutti con ansia dopo il sabato, è stato il primo vero grande duello ruota a ruota tra il nero e il tedesco, perché finora su 7 gare, in un equilibrio pazzesco tra Ferrari e Mercedes, per situazioni, contingenze diverse, eccetera, non li abbiamo mai visti sfidarsi in pista, hai capito? Ecco, questo ci manca ancora. Io penso che ci stiamo arrivando. Abbiamo 13 gare, prima o poi ce lo regaleranno. Non sempre Verstappen farà dei numeri tipo ieri, hai capito? C'è chi lo paragona e dice che è il nuovo Villeneuve. Poche balle subito alla Ferrari, Andrea da Modena. Beh, Andrea sicuramente ne capisce, il problema è che per portarlo alla Ferrari bisognerebbe andare a parlare con i bibitani in Austria, che se lo sono allevati come un pollo in batteria, e dirgli: ah, lasciatelo venire Maranello, perché noi siamo la Ferrari. Un giorno io immagino che possa accadere, dubito che ci siano le condizioni perché si verifichi in tempi brevi e immediati, ma poi guarda, adesso noi stiamo vivendo un mondiale nel quale non avremmo mai creduto di poterci specchiare a marzo. Io credo che tutto l'ambiente Ferrari, dai tifosi, vuoi tu, debba essere esclusivamente concentrato su quello che è, diciamo così, il grande valore di una stagione che è uno spasmo infinito. Io non voglio sentire parlare di mercato, di piloti, tutto il resto. Dobbiamo vincere questo campionato del mondo, perché c'è una grande opportunità. Allora, abbiamo il traffico, io ti do 30 secondi abbiamo 30 secondi per difendere Kimi Raikkonen, che è indifendibile. La vodka in Canada è di pessima qualità, posso confermarlo perché ci sono stato spesso, però io non devo difendere nessuno. È uno che ha fatto la pole a Monte Carlo 2 settimane fa, ieri era in lotta con Vettel per salire sul podio, se non gli si fossero rotti i freni nel finale sarebbe anche lui arrivato lì. Gli avrebbero chiesto di far passare il tedesco, dai. Beh, questo adesso tu vuoi mettere le mani avanti, probabilmente a Baku, perché no? Però voglio dire, alla fine della fiera io non vedo tutto questo disastro. Ecco, è stata una domenica come quella della Mercedes a Monte Carlo, abbiamo limitato i danni e, come ti ho detto all'inizio, un mondiale, te lo ribadisco, dalla Piero Cormano in coda, lo si vince anche in questo modo, portando a casa punti importanti quando per tutta una somma di circostanze non si riesce a lottare per la vittoria. Grazie Leo. Buona giornata, buon lavoro. Ciao. Grazie Leo Turrini, a presto. Allora, 800 24 00 24, adesso c'è il traffico, ci fermiamo, poi parliamo della nazionale, parliamo del mercato del Milan, parliamo anche di queste parole di Donnarumma che ha detto: sono legato al Milan, sto cercando casa in centro, tutti sanno la mia volontà, però che rimane al Milan l'anno prossimo non lo dice, eh? 800 24 00 24 Convocati. Tutti convocati. Credo che sia stato utile il primo tempo, perché con la voglia di strappare non fai. Se noi arriviamo alla partita della Spagna con una voglia esagerata, vai fuori giri. Il gioco del calcio è gioco. Il secondo tempo abbiamo giocato con serenità, lo potevamo fare anche nel primo. Questo era Ventura ieri, dopo Italia Liechtenstein 5-0, 8-0-0, 24-0-0, 24, che vincessimo contro Liechtenstein anche in maniera larga, era tutto sommato scontato e così è andata, anche se nel primo tempo ci siamo complicati la vita, ma tanto tutti guardano al 2 settembre a Spagna-Italia. Saluto Stefano Ragno, ciao Stefano. Ciao, ciao, buona giornata a tutti. È vero che per una questione di testa noi italiani non siamo fatti per le goleade? No, ma anche perché queste partite, quando incontri sulla carta squadra che pensi di farla in un boccone solo, invece purtroppo sono tutte comunque organizzate, sono squadre che, se non ci metti il giusto impegno e non giochi da squadra, come ha detto appunto Ventura, diventa difficile anche vincere contro quelle che all'inizio sembrano squadre che non possono certamente impensierirti. Infatti poi è successo quello che, quando hanno giocato da squadra, sono riusciti a fare quello che si doveva fare anche nel primo tempo. Però sono lezioni queste, sono tutte esperienze che poi ti porti dietro e cercare di non fare gli stessi errori, ecco. Sì, però è paradossale, strano e curioso che storicamente la nazionale italiana in questi appuntamenti non riesca mai a fare come fanno tanti altri, come fa la Germania, come fa la Spagna. La Spagna ne ha fatti 8 al Liechtenstein. L'Italia ha giocato due partite, tutte e due le volte solo un tempo, il primo tempo all'andata e la ripresa al ritorno. Sì, sicuramente è così, anche perché comunque nelle partite dove poi conta l'Italia forse è una delle poche squadre che riesce sempre, pur magari sulla carta essere inferiore, nello stesso tempo a mettere in difficoltà qualsiasi nazionale, mentre invece viceversa il trovare la giusta concentrazione, la giusta voglia con le squadre che sono minori già di partenza, si rischia forse anche di fare qualche brutta figura, ma questa è storica, storicamente succede questo. Però è normale che l'obiettivo, questi sono allenamenti per quella che è poi la partita che conta seriamente. Sì, che è quella di settembre. Esatto, che sicuramente sulla carta possiamo partire anche svantaggiati, perché loro come cultura calcistica, come modo di pensare al calcio sono un pochettino più avanti di noi, però noi storicamente siamo anche squadra che non leggiamo molto meglio le partite degli altri, abbiamo degli allenatori dove sono preparati e cercano comunque di dare delle nozioni alla squadra in modo da non subirle quando attaccano loro e nello stesso tempo trovare i punti deboli, anche se poi la Juventus insegna contro Real Madrid che si pensava di giocare una partita, poi non arrivi in condizioni fisiche anche e morali nel modo giusto, rischi di fare le brutte figure. C'è un po' il rischio anche che ci sia troppo entusiasmo. Io sento dire a settembre si può vincere a Madrid, non siamo inferiori alla Spagna. Insomma, dobbiamo anche ricordarci che la Spagna è più forte di noi in questo momento. No, noi siamo inferiori alla Spagna, però questa è la nostra forza, il fatto di capire di essere meno forti per essere preparati come testa e come fisicamente soprattutto, perché poi quello che ti porta a fare le cose bene è proprio essere pronto fisicamente, perché le qualità ce l'abbiamo sia difensivamente sia offensivamente, però è normale che quando hai di fronte una squadra che tecnicamente ha qualcosa in più, soprattutto il 2 settembre che potrebbero essere giornate comunque calde, e chi è maestro nel possesso palla può avere certamente un vantaggio, e la Spagna storicamente dimostra di comunque quando ha la palla diventa difficile toglierla, perciò sarà una partita certamente dispendiosa, però c'è il però che è l'incognita che l'Italia ha dimostrato anche storicamente di poter far male a certe squadre. Ma certamente partiamo in vantaggio. Certamente partiamo sfavoriti e lo diciamo, così evitiamo poi di svegliarci come è capitato alla Juventus a Cardiff, svegliarci in mezzo ad un incubo. Poi dopo mi dai il voto, anzi dammi il voto a Ventura, che ha detto di meritare un voto altissimo. Adesso fino a questo momento stanno lavorando. Ha fatto 10 partite, 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Ha pareggiato con la Germania, ha pareggiato con la Spagna e ha perso con la Francia. Sì, ma io darei un 7,5. Un 7,5 perché comunque, benché si dica, secondo me l'Italia è una squadra che se tra le 4 o 5 del mondo ci può stare, anche perché ha qualità tecnica, ha giovani dietro che possono veramente crescere di qualità, e come organizzazione di gioco siamo secondo me avvantaggiati, perché abbiamo qualche cosina in più delle altre, però è normale che ci sono altre squadre che suppliscono magari all'organizzazione con la qualità tecnica di ogni singolo giocatore che è superiore alla nostra. Perciò io per il momento 7,5, sperando che poi il 2 settembre ci possa dare il 2 settembre gloria. Se vinciamo a Madrid gli diamo 9-10. Anche 11 con lode. Abbiamo un minuto, io ne approfitto per chiederti cosa pensi anche del Milan che sta nascendo. A minuti dovrebbe arrivare l'ufficialità di André Silva, che questa mattina ha fatto le visite mediche ed è chiusa, anche detto le prime parole da attaccante del Milan. Ha parlato anche Jorge Mendes, che è il suo procuratore. Poi c'è la vicenda Donnarumma, che deve dare una risposta. Domani esce su GQ un'intervista, oggi è stata anticipata. Dice Donnarumma: io sto cercando casa a Milano, un appartamento grande dove ci sia spazio per tutti i miei cari, e siccome il centro di Milano è bellissimo lo cerco lì, mi sento pronto. Sono sereno perché tutte le parti di questa trattativa conoscono la mia volontà. Con Mino ed Enzo Raiola, che fu il primo a notarmi, e con la mia famiglia formiamo una squadra. Io sono molto legato al Milan. Parole d'apertura, però perdonami Stefano, anche da tifoso del Milan, quella benedetta parolina finale non la mette mai. Eh sì, guarda, diciamo che lui è giovane e purtroppo va seguito. Però sappiamo tutti che chi lo sta seguendo è una persona che pensa molto anche, sì, a fare il bene del giocatore, ma soprattutto anche cercare di riuscire a racimolare il più possibile da quella che può essere una trattativa. È una situazione scomoda per lui, perciò va aiutato e gli fa capire che comunque il Milan sta facendo uno sforzo notevole, perché sta creando una squadra, e a livello di mercato penso che sia la squadra che si stia muovendo più di tutti, almeno sta creando un qualcosa, e certamente c'è coerenza da parte della dirigenza del Milan, perché ha detto che si muovevano, si sarebbero mossi sul mercato, lo stanno facendo anche sulla carta, con grandi acquisti. È normale che questo deve far capire, visto che Raio l'aveva detto, noi vogliamo prima capire chi è la società e se vorranno fare delle grandi spese sul mercato. Questo lo sta facendo. La sensazione è che quella fosse una scusa, scusa anche legittima fino a un certo punto temporale. Poi però, oggi il Milan che cosa sta facendo? È qui, manca sempre la controparte. Sì, comunque sì, gli hanno offerto un ottimo contratto. Io penso che alla fine, anche con qualche clausolina, Donnarumma lo vedremo con la maglia del Milan, e è normale che il futuro, almeno che non si vinca subito e non si facciano ottimi risultati subito, forse lo vedremo anche vestire in futuro un'altra maglietta. Però per questo penso che sia importante per il Milan avere il tassello Donnarumma, perché dà ancora più credibilità in quello che sta facendo poi la società rossonera. Grazie Stefano. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Stefano Eragno. Abbiamo la borsa 800240024. Adesso arriva anche Pierluigi Pardo. Parliamo anche della vicenda dei diritti TV, oltre che del mercato. Borsa. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. È arrivato per Luigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Bene, bene, bene. Grande weekend, eh? Sì, sì, sì. Soprattutto perché stavo a punta. No, tante le battute. Grande weekend. No, ma io l'ho detto apposta, perché noi eravamo qui a combattere e tu stavi al mare. Beato te. Abbiamo anche provato un collegamento. Troppo. No, però grande weekend veramente, perché insomma siamo pieni di robe nuove e interessanti. Sì, ma sei d'accordo anche tu con me che c'è un po' troppa fiducia intorno alla nazionale, in vista di Spagna-Italia, intendo? Ma no, la fiducia è una fiducia, è l'ottimismo della volontà che poi si scontra col pessimismo della ragione. Cioè, è ovvio che la Spagna sia strafavorita per arrivare prima nel girone, perché le basterà un pareggio in casa, quindi insomma la sensazione è che sia un po' più forte di noi, giochiamo fuori casa, dobbiamo andare a vincere, quindi... Oltretutto, diciamo, settembre non è esattamente il periodo migliore storicamente per il calcio italiano, forse neanche per quello spagnolo, speriamo. Però insomma, detto questo, io penso che dobbiamo essere soddisfatti del percorso di Ventura fino a questo momento. Ecco, in questo invece condivido, diciamo, l'ottimismo, comunque il giudizio positivo. Cioè, questa è una squadra che gioca bene, che ha una sua fisionomia. Mi sembra che rispetto a un paio d'anni fa si cominci a vedere un po' di futuro, sia fra i giovanissimi, lasciando perdere l'under 20, ma insomma fra quelli proprio piccoli, sia i giovani che sono già in nazionale, mi sembra che ci siano giocatori che stanno crescendo tanto, Insigne un esempio abbastanza indicativo. Però meglio andarci coi guanti, Pier, perché poi rischi di scottarti dopo. Perché tanto sì, poi tutto passerà da quella partita lì, anche il giudizio, questo è un tema filosofico, anche cioè, la valutazione su quello che è il nuovo corso. Sì, però voglio dire, non è che se ci andiamo depressi poi vinciamo, quindi, secondo me sono proprio sono filosofie di vita, goderti quello che hai in tasca, sapendo che potrebbe essere spazzato via da Spagna Italia, oppure stare con i piedi per terra. Io per carattere cerco di, mi piace vivere le emozioni e quindi mi godo questa nazionale che secondo me sta facendo bene. Io credo che Ventura debba essere contento, la federazione debba essere contenta della scelta che ha fatto. Poi è ovvio che l'elemento oggettivo è che nello stesso girone c'erano l'Italia e Spagna, ed è abbastanza assurdo questo, francamente, no? E vedremo, non siamo favoriti per arrivare prima. Poi è anche vero che altre volte già siamo passati attraverso il preliminare, non è che il preliminare non è la fine del mondo, speriamo. Allora, carissimo Piera, a grande richiesta torniamo sulla questione del weekend, l'altra questione, quella dei diritti TV. Saluto Marco Mensurati di Repubblica. Ciao Marco. Ciao a tutti, buona giornata. Allora, ne abbiamo parlato ieri con Marco Bellinazzo e con il presidente del Torino Urbano Cairo, che ci ha raccontato che la Serie A vale tutti i soldi che chiede e anche qualcosa in più, e che quindi bisogna essere ottimisti. A proposito di ottimismo, anzi, vi faccio sentire un passaggio di Urbano Cairo ieri. No, un momento, non è che vale meno della metà, perché alcuni pacchetti non hanno avuto offerte, quindi chiaramente quei pacchetti che non hanno offerte, nel momento in cui verranno invece ripresentati, avranno offerte, aumenteranno il valore, quindi non è vero che sia la metà. Noi abbiamo un prodotto, il calcio, che è il prodotto in assoluto più amato e più seguito dagli italiani, ma non soltanto dagli italiani, direi dagli europei. Quindi devi migliorare certamente il campionato, che peraltro comunque è già bello e ha tantissimi campioni. Devi proporre al mercato dei broadcaster e comunque sia chi potrebbe essere interessato ad acquistare i diritti, una proposta che massimizzi l'entrata per il calcio, e credo che ci possa essere. Allora, Cairo e tutti i presidenti sono ottimisti, però tanti dicono, lo chiedo a Marco Mensurati e anche a Pierluigi Pardo, che in realtà se il calcio in TV a questo giro attira meno è anche perché il nostro è un campionato poco divertente, dove vince sempre la stessa, si sa più o meno in partenza, dove ci sono stadi vecchi. Non so, chi ha ragione? Ha ragione chi non ha offerto o ha ragione chi è fiducioso? Marco? Ma intanto bisogna distinguere secondo me due piani, perché chi non ha offerto e chi ha offerto poco, perché diciamo anche questo è successo, non lo ha fatto certo perché il calcio non è attraente, ma lo ha fatto per motivi strategici, tattici, paraculi, diciamo in altri termini, e anche perché probabilmente poi l'offerta non era, il bando non era formulato nel miglior modo possibile. Era un po', come dire, frutto di un compromesso al ribasso. E poi c'è l'altro tema, quello che qua, il calcio sviluppa al massimo il potenziale che sicuramente ha, comunicativo che sicuramente ha. Ora, la risposta secondo me è chiaramente no. Diciamo, dei 20 presidenti di Serie A ce ne sono almeno 16 che al di là dei soldi non hanno molto di più, ecco. Poi ce ne sono altri che, come Cairo ad esempio, riescono a ottimizzare e rendere più sexy possibile il prodotto, insomma. Poi magari un tifoso del Torino la pensa diversamente, questo non lo so, però mi chiederà loro. Quindi distinguiamo per bene i due piani, ecco. La Premier League e la Liga ottimizzano il prodotto forse oltre il massimo, il calcio italiano no. Cioè, ci sarà una ragione, Pier, se gli altri crescono senza problemi e noi da sabato abbiamo scoperto invece che qualche problema c'è. Attenzione, però, non è una questione tecnica, io lo dico, è che anche ritardare di 6 mesi significa comunque, ad esempio, che già da questo mercato le squadre su progetti a lungo termine un paio di conti se li devono fare. Ma no, ha ragione Marco, perfettamente, nel senso che poi alla fine è chiaro che l'altro giorno è stata una mossa di tattica, sia da parte di Mediaset che non ha fatto offerte, sia da parte di Sky che ha offerto oggettivamente meno di quello che tanti potevano immaginare. Altri soggetti, io lo leggo dai giornali, il fatto che Mediaset non avesse fatto offerte l'ho scoperto tramite Bellinazzo a mezzogiorno e mezza al largo di Cala Feola a Ponta, quindi tanto per essere chiari. e credo che insomma anche altri soggetti ai quali si guardava con interesse come un possibile operatore telefonico che potesse fare un'offerta pesante fino a questo momento, ma insomma è sembrata la prima parte di una partita a carte. È ovvio che non finirà così, ecco, come è abbastanza evidente. L'ipotesi di un canale della Lega credo che sia l'estrema ratio. Cairo magari ha il know-how, essendo editore puro, è quello che può essere più eccitato dall'idea e che sa meglio come farla. È chiaro che tecnicamente è possibile, no? Comunque il prodotto è possibile. Cioè non è che gli italiani l'anno prossimo non guarderanno, parliamo fra due anni, non guarderanno più il calcio, aspetteranno di seguirlo, perché il secondo però perdonatemi l'investimento del nostro calcio è evidente, però l'immagine che ne esce è quella di qualcuno che si misura con dei limiti di cui abbiamo sempre parlato, ma che erano sempre coperti comunque da montagne di soldi. Ecco, secondo me è questo il punto. Bisogna un attimo chiarire meglio, cioè qui stiamo parlando, voi immaginatevi la scena in un souk con un tappeto, a voi vi interessa il tappeto, entrate dentro e dite quanto costa, e quelli vi dicono 100.000, voi prendete e ve ne andate, ma non perché non volete il tappeto, ma perché volete che vi formulino il secondo prezzo. Cioè è una bieca trattativa da souk questa qui, ma perché è nel mercato. Poi se chiamiamo un esperto di tappeti ci dice quanto vale esattamente quel tappeto e dove può essere migliorato. Ora, secondo me quel tappeto può essere migliorato di un 30-40% la sua qualità. Questo non toglie che quello che abbiamo visto ieri non ha nulla a che vedere con il valore reale di quel tappeto. E secondo me ci fa anche capire che la famosa trattativa di tre anni fa, che poi ha portato a inchieste che non sono ancora finite, a polemiche ovviamente legittime, sarà molto difficile secondo me, adesso poi Marco ne sa più di me, sarà molto difficile riuscire a trovare una quadra su quella cifra. Cioè io temo, cioè, da un certo punto di vista, lavorando per delle televisioni dovrei essere contento se le televisioni danno meno soldi al calcio, però per il sistema calcio io temo che quella cifra lì di tre anni fa sarà molto difficile da riuscire a creare, perché arrivò proprio attraverso una mediazione complicata tra più soggetti e ha portato a un introito che secondo me difficilmente si ripeterà. Lo auguro ovviamente alle società di calcio, lo auguro di meno alle televisioni, però non so che ne pensa Marco. Sì, a sentire i presidenti no, Marco, sentire chi vende no. Io credo che quel prezzo verrà migliorato del 10%, come più o meno inevitabile che sia, ma stiamo parlando di una fame, nel senso che di qui insomma c'è l'ISTAT, l'aumento ISTAT, cioè ci sono un incremento inevitabile. Dopodiché la vera domanda è quanto avrebbe dovuto essere più alto il prezzo dopo tre anni. Cioè il 10% è poco, insomma, però è una mia impressione, magari hai ragione tu che non si farà, insomma. Io invece penso che la competizione è aumentata. Tu tieni conto che tre anni fa quel esattamente quello che è andato all'asta due giorni fa venne venduto per 840 milioni di euro e sabato è stato offerto più o meno mezzo miliardo, quindi siamo ancora distanti, mancavano dei pacchetti, mezzo miliardo, però mancavano i 200 milioni di un pacchetto che non è stato, e i due pacchetti di internet sono andati praticamente deserti perché hanno offerto 50 invece di 200. Ora, secondo me era formulato male quel bando e quindi non ha sollecitato nel modo opportuno il mercato. Però stiamo parlando di pronostici. Aspettiamo cosa succede in autunno. Mi diceva Beniazzo l'altro giorno che proprio per capire quanto il calcio italiano fatichi rispetto ad altre realtà, che insomma, in tutti i paesi è stato un boom dei diritti televisivi. Noi come industria calcio abbiamo tenuto, il che, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, negli ultimi anni è positivo, perché sappiamo che invece altri settori dell'economia sicuramente hanno avuto una pressione, quindi questo può essere incoraggiante, ma questo ci racconta il fatto che il calcio in assoluto non è in crisi. La verità è che negli altri paesi sono molto più capaci di riuscire a sfruttare questo tipo di... Esatto. Attraverso una serie di investimenti, e gli investimenti li devi fare nelle infrastrutture, li devi fare in una cultura... Sono, sembrano astratti, però no, questo Pier dice che siamo in crisi noi, ma il problema è che lo diciamo da anni e forse sabato per la prima volta ci siamo misurati dal punto di vista dei numeri economici di un'offerta che poi ci saranno mille spiegazioni anche extra calcio, però non ha soddisfatto quelle che erano le aspettative di partenza, e io credo che questa sia la fotografia. Poi il tecnicismo probabilmente in autunno porterà a chiudere, anzi sicuramente porterà a chiudere un accordo, porterà i soldi, porterà tutto. però chi deve riflettere, credo da sabato, ha dei motivi in più per riflettere. Abbiamo il traffico, io saluto Marco Mensurati, grazie Marco, ciao. Ciao ragazzi, buon lavoro. C'è anche chi scrive, Andrea, che la gente si è stufata di pagare tutto e tutti, oppure c'è anche chi dice che il calcio italiano è ridicolo perché ci sono le società che si basano per il 60% del fatturato sulle TV. È proprio a questa ragione, io credo ci sia poco da essere contenti di quello che è successo sabato. Abbiamo il traffico 800 24 00 24. Non abbiamo finito di parlare di motori, perché dopo le 15 c'è Ungaro, c'è un grande ospite di casa Ducati, poi parleremo ancora del Milan. Adesso invece parliamo un po' di mercato. Convocati. Tutti convocati. Twitter chiocciola tutti convocati è aperto da mezz'ora al sondaggio se vi piacerebbe o no Buffon in futuro sulla panchina della nazionale come CT. Sapete che ha detto che ci potrebbe pensare per il futuro, allora vi piacerebbe o no? Se volete dircelo anche 800 24 00 24. Carissimo Pier, c'è Arianna Ravelli del Corriere della Sera. Ciao Arianna. Ciao, ciao a tutti. Ti piacerebbe Buffon? Secondo te è adatto a fare il CT dopo Ventura magari? Aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Adesso c'è la moda di lanciare comunque ex calciatori, sì, subito. C'è chi l'ha fatto, Platini è diventato credo CT subito. Sì, sì, ma non tutti sono come Zidane, che funziona. Che hanno avuto questo successo incredibile a questo punto, facendo a tutti anche un po' rimangiare alcune prime, no, commenti sul fatto che Zidane fosse solo un motivatore o gestore di spogliatoie. Ecco, non lo so, vorrei, sono per percorsi un po' più tradizionali, con un po' più di gavetta, quelle cose lì. Sì, anch'io, almeno anche per una prova. Ma sì, anche perché allora è evidente che i grandi campioni hanno un carisma e una capacità nella gestione, nell'approccio con le grandi partite, con le grandi situazioni, con i grandi giocatori di un certo tipo. Quindi questo è un po' il teorema Zidane, se vuoi anche il teorema Guardiola di prima, ed è un dato oggettivo. Però altre volte non basta, ci sono anche, non è elegante fare nome, ci sono anche grandi giocatori che poi invece hanno faticato in una carriera da allenatori. Quindi la verità è che nessuno sa rispondere a questa domanda, ma probabilmente anche Buffon avrà bisogno di un po' di tempo quando finirà di giocare per farsi due domande su ciò che lo motiva. L'ha buttata lì. Allora, abbiamo chiamato Arianna Ravelli per sapere se anche lei è sorpresa dall'attivismo di Fassone del Milan. Allora, solo oggi, visite mediche e arriverà l'ufficialità di André Silva, preso ieri sera, poi incontri con il procuratore di Pastore e di altri giovani argentini, con il Paris Saint-Germain, con Jorge Mendes che ha parlato anche di Douglas Costa, dell'attaccante ex Chelsea, adesso mi sfugge il nome, Diego Costa. Oggi non è giornata con i nomi. Io devo dire, trovo tutto molto sorprendente, non perché non sapessimo che con la nuova proprietà ci sarebbe stata attività sul mercato, però i tempi e i modi sorprendono. Arianna, allora devo dire che loro sono stati di parola, nel senso che Fassone aveva detto subito in sede di presentazione che per il raduno voleva avere pronta due terzi di rosa già da dare a Montella, insomma, diciamo, fin dal primo giorno, e questo stanno facendo, no? Questo. Poi io onestamente, cioè, è chiaro che non è che possono prenderli tutti, e si accosta anche al Milan ormai un po' chiunque. Io penso che cercando di mettere un po' d'ordine il Milan possa prendere un altro centravanti, credo che Kalinic sia un'opzione, ma non l'unica, un centravanti che possa in qualche modo, perché André Silva è un prospetto, una potenzialità fortissima, no? Però è anche un ragazzo di 21 anni che non sappiamo come si integrerà con il campionato italiano, quindi può essere che ci sia nelle loro intenzioni ci sia di affiancargli un centravanti che invece conosce già il campionato italiano, e per esempio appunto per questo parlo di Kalinic. Detto questo, poi un centrocampista, se Biglia, ma solo se lo dico. Sì, ma oggi stanno parlando anche di Krikoviak, quindi esatto, l'alternativa esatto, c'è. Esattamente, l'alternativa c'è, anche se anche, ricordiamo, il polacco ha fatto benissimo Siviglia con Emery, ma poi ha fatto malissimo con Paris Saint-Germain. Quindi anche lui, bisogna anche questo un po' trattare quantomeno sul prezzo. E poi c'è la voglia, l'idea, Conti, no? Che, di cui sappiamo tutto che per Cassio sia un po' nervoso. Queste sono le tre figure che mancano, e poi naturalmente c'è il caso Donnarumma, forse soprattutto, prima di tutto. Le parole queste che sono... abbiamo letto prima, secondo te, sono la risposta, l'apertura, o sono ancora un ennesimo rinvio della questione? Ma una notazione, l'intervista GQ a cui fai riferimento è stata fatta il 23 maggio, quindi 3 settimane fa, quindi molto prima che venisse presentata l'offerta, peraltro di un certo quindi, rilievo. Quindi siamo ancora fuori tempo, anche se in realtà poi dice Paolo Condò che l'ha fatta, che c'è stata una telefonata un paio di giorni fa per confermare che fosse tutto attuale. Però io non so che impressione avete voi, e adesso c'è il GR, ci salutiamo, quella risposta, quella definitiva ancora non è arrivata, e non è arrivata neanche con questa intervista. Più passano i giorni quel credito, secondo me, si consuma. Abbiamo il GR, ragazzi, siamo fuori. Io ringrazio Arianna Ravelli, Corriere della Sera, ciao Arianna, grazie. E Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani. GR 800 24 00 24, ripartiamo con la Super Ducati. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti. E andiamo. Convocati. Totalmente inaspettato, e anche in questo momento non penso al campionato. Non passatemi quello che sto dicendo, ma sono, come ho detto adesso, riesco a sfruttare la moto perché conosco i pregi e difetti, ancora devo migliorare certe cose. Nelle ultime due gare non si sono viste perché abbiamo dominato, ma ci sono certi aspetti che dobbiamo migliorarli per giocarci davvero il campionato, quindi piedi per terra. Ho partito già male, già non avevo un buon feeling con la gomma di dietro, e ho avuto paura alla fine perché sul rettilineo scivolava anche con la sesta marcia, sì, e non lo so, alla fine ero lì che pensavo, non so cosa succederà. Io mi stavo preparando per se la gomma, non lo so, passava qualcosa, per quello che mi è fermato io ho guardato la gomma perché era veramente un disastro, non posso capirlo. C'è stato un momento della gara dove non andavo male, addirittura ho fatto il secondo giro più veloce della gara, ho fatto 46-0, ma anche perché avevo un buon tiro, ecco. E eravamo molto preoccupati del davanti, ma fortunatamente stavolta abbiamo messo la media e non abbiamo messo la dura come a Jerez, ma alla fine il davanti ha resistito, il problema è stato molto dietro. E avremmo potuto forse mettere la dura dietro? Non lo so, forse, può darsi. Torniamo nel regno dei motori, intanto in tanti non volete Buffon CT della nazionale, io non riesco veramente a capire perché, se me lo spiegate 800 24 00 24, siamo qui fino alle 15.30, però adesso parliamo di Dovizioso della Ducati, Roberto Ungaro, ciao! Ciao Giovanni, un saluto a tutti! Allora, abbiamo scoperto che ha cambiato la sua carriera in 7 giorni. Hai visto, comunque lui, le sue parole, hai sentito? Cioè, andiamo coi piedi di piombo, perché non si può dire adesso la Ducati davanti a tutti, la moto da mondiale. Sì, è andata bene 2 volte di fila, e ti dico che stamattina sai che ci sono stati i test, si sono fermati, intanto c'è un Espargaró che è veramente imbuffalito, ha fatto dei tempi notevoli perché quello di ieri è il terzo motore che ha rotto Aprilia, quindi ha raggiunto le prestazioni ma non l'affidabilità. non si conoscono ancora i valori in campo di Yamaha, e quello è importante da sapere perché devono risolvere. Però ti dicevo, Giovanni, che un po' di rumors nel paddock si sentono riguardo alla prestazione delle gomme per quanto riguarda la Ducati. Cioè, nulla da togliere a quello che ha fatto Dovizioso, che ha guidato timidamente, però tutti si chiedono com'è che queste Ducati, soprattutto sul finire della gara, sono andate così forte. Cioè, la Michelin che gomme fornisce a Ducati? Abbiamo visto un recupero pazzesco di Lorenzo, visto come entrava anche in curva, la faceva scivolare, sembrava un supermotore, cose che non fa quando è in forma. Non voglio dire nulla, nel senso sono dei rumors, cioè si chiedono ma questa Michelin come sta funzionando? Comunque il problema, Giovanni, è il cambiamento di temperatura, cioè c'è un range di utilizzo, il delta è troppo ristretto. Se cambiano i gradi, anche solo di 5-8 gradi, il rendimento della gomma cambia completamente. Sì, ma stiamo vedendo il campionato delle gomme. Aspetta, perché c'è Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Non so, che gomme vi dà la Michelin? Così togliamo subito. Ci dà le gomme che dà a tutti gli altri, e devo dire che credo che Roberto non lo sappia, ma nella seconda sessione di prove di sabato, che noi chiamiamo FP4, le Free Practice 4, che dura 30 minuti, Dovizioso è stato l'unico a uscire con un pneumatico posteriore medio usato, molto usato, e a fare tutta la sessione per provare a capire quali prestazioni si potevano fare con una gomma che aveva quasi una ventina di giri. Quindi io credo che una delle ragioni del successo di ieri e della bellissima prestazione di Andrea sia il fatto che lui aveva preparato la gara e quindi aveva voluto assaggiare le prestazioni della gomma verso come sarebbero state verso la fine della gara. Credo che sia una scelta che ha fatto solamente lui, e credo che abbia pagato. Sì, io credo, Roberto, che non ci sia mai niente di casuale. Anche ascoltando Valentino Rossi, ad esempio, ieri ha praticamente fatto capire che tutti i difetti della Yamaha, della sua Yamaha, lui li aveva segnalati da mesi. Poi dopo, ogni domenica, troviamo una spiegazione diversa. Però dietro c'è sempre uno studio, la preparazione, i test. Sì, però la Yamaha comunque è andata bene, ha fatto ottime cose, quindi non può da un momento all'altro. Cioè è chiaro, è evidente che il problema risiede nella gomma, perché il progetto Yamaha all'inizio, anzi l'abbiamo detto, era la moto più bilanciata, era la moto da battere, non solo per Vignales, ma nell'insieme come rendimento. E quindi questo rendimento anomalo, questo posizionamento di tutte e due, questo posteriore che scivola, è tutto lì il problema. Cioè il problema è della Michelin, e soprattutto, come accennavamo ieri, quello che si lamentano un po' tutti è il rendimento che non è costante. Cioè i lotti di gomme spesso non tengono fede a quello che dovrebbero fare, il lavoro che dovrebbero svolgere, e questo forse anche Paolo lo può confermare. Cioè Bridgestone aveva abituato a un altro rendimento un'altra costanza di rendimento, è vero o no Paolo? Devo dirti, se vuoi, da un certo punto di vista hai ragione, ma ti devo anche dire che non mi piace mai parlare degli altri costruttori, però guarda la Yamaha 2016, a Erez, dove sono andati in crisi quello ufficiale, loro sono andati fortissimo e qui sono state davanti, quindi non credo che sia un problema che sta solamente nelle gomme, anche se è vero che ad ogni gara riceviamo delle coperture che hanno delle caratteristiche leggermente differenti, e quindi ogni gara bisogna lavorare molto per cercare l'equilibrio migliore. E il problema della gara al Mont-Melo è che il circuito è estremamente rovinato, pieno di avvallamenti, di buche, l'asfalto ha un grip estremamente basso e faceva veramente tanto caldo. Quindi questo poi... C'erano delle condizioni anomale o comunque che si trovano in poche piste del mondiale. Però la domanda che si fanno tutti, che giro direttamente a Paolo Ciabatti, è se adesso la Ducati e Dovizioso possono vincere il mondiale. Ma come abbiamo detto tutti, rimaniamo con i piedi per terra. Sì, però senza nascondersi. Cioè... No, ma infatti non ci nascondiamo. Allora, a 7 punti da Vignales e senza l'incidente in cui Spargarò in Argentina ha buttato per terra Dovizioso, saremmo in testa al mondiale, questa è la verità. Allora, bisogna secondo me crederci al fatto che c'è una possibilità di provarci, non siamo favoriti, siamo degli outsider, però sarebbe sciocco non pensarci. Poi sappiamo anche che la nostra moto ancora ha dei difetti e su questi stiamo lavorando, ma credo che siamo riusciti a migliorare decisamente nelle ultime gare, e credo anche che il quarto posto poi di Jorge Lorenzo ieri in rimonta sia la dimostrazione che in certe condizioni la nostra moto è estremamente competitiva. Noi vogliamo che lo sia in tutte le condizioni, e quindi stiamo lavorando per questo. Però non pensare al mondiale sarebbe un errore. Hai capito, Roberto? Cioè, dobbiamo giusto, crederci, non pensare al mondiale sarebbe un errore, come cambia la vita in una settimana. Io voglio solo chiedere una cosa a Paolo, che gli è molto vicino. In Andrea, secondo te si è sbloccato qualche cosa al Dovi? Perché come diceva anche Carletto Perna, cioè che gli ha letto una luce diversa negli occhi, è cambiato qualcosa secondo te in lui con queste due vittorie o no? Ma io credo che lui abbia, che si sia sbloccato in lui l'anno scorso quando ha vinto a Sepang, anche se era una gara in condizioni particolari perché la pista era bagnata, però questa vittoria che arriva, io non credo alla cabala, però è buffo perché tra la prima e la seconda vittoria di Dovizioso sono passati 7 anni, tra la seconda e la terza sono passate 7 gare, sì. No, sette mesi. Tra la terza e la quarta sono passati 7 giorni, adesso siamo a 7 punti dalla finale. Insomma, quindi è meraviglioso. È la regola del sette. Però detto questo, lui ha fatto un grande lavoro quest'inverno. Non solo di preparazione fisica ma anche di preparazione psicologica. E ripeto, credo che la vittoria a Sepang 7 anni dopo quella di Donington gli abbia fatto acquisire una maggiore consapevolezza dei suoi mezzi. Prima si diceva, tutti dicevano che il primo a non credere tanto nelle sue doti e nel suo talento fosse proprio lui. Adesso Andrea ci crede. Questi due ultimi risultati, Mugello e Barcellona, gli hanno confermato che è un pilota che può combattere alla pari con Marquez, con Rossi, con Pedrosa, con Vignales, con tutti gli altri. Ma il pericolo da dove viene secondo voi? Dalla Honda, quindi da Pedrosa Marquez, oppure da Vignales e Rossi? Se doveste battezzare un avversario. No, io credo che al di là degli ultimi episodi, gli avversari rimangano questi, nel senso che secondo me sono Vignales e Marquez, soprattutto con tutto rispetto ovviamente per Pedrosa e per Valentino Rossi. Credo che siano quelli che Marquez, nonostante anche abbia fatto 7 cadute nel weekend del Montmeló, comunque ha fatto una bella gara, ha rimontato su Pedrosa che pensavamo tutti avesse un passo per poter andare via ed è arrivato secondo. Quindi personalmente credo che siano Marquez e Vignales gli avversari principali, e ovviamente i loro compagni di squadra che sono altrettanto competitivi. Grazie Paolo Ciabatti. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Paolo. Ciao, Ciabatti, Paolo, direttore sportivo della Ducati. Poi ti giro un paio di messaggi, Roberto, prego. Sono assolutamente d'accordo con Paolo, abbiamo sempre detto Marquez e Vignales sono loro due quelli da guardare per il campionato. Un po' di rosso italiano lo speriamo tutti, perché ne abbiamo bisogno, se lo meritano, e soprattutto lo dico, se lo merita Andrea Dovizioso, perché è una bravissima persona, al di là del pilota. Io parlo umanamente, e Dovi è veramente una bella persona. Un risultato per lui sarebbe, non voglio dire un fine carriera, perché è ancora presto forse per dire, per appendere il casco al chiodo, ma sarebbe il coronamento finale di comunque una carriera onestissima, perché i mondiali se ne ha vinti, gli manca solo qualcosa nella classe regina, è da tanto che lì non è mai riuscito a prenderla, ecco. Emanuele da Bari, Emanuele. Salve. Complimenti per la trasmissione, anche se non si dovrebbe dire. No, volevo velocemente far notare solo una cosa. I TG di stamattina hanno evidenziato la gloriosa vittoria dell'Italia sulla potente squadra calcistica del Liechtenstein. Sì. Non hanno detto un cenno, non hanno detto una parola sulla grande vittoria di Dovizioso e la Ducati. Ma ci sono le prime pagine piene, però. Sì, ma si parlò alla televisione, sì. È vergognoso secondo me, è solamente vergognoso. Hanno parlato solo dell'Italia, del grande 5-0 con questi potentissimi, bravissimi questa squadra forte del... Vabbè, insomma, abbiamo vinto 5-0, una vittoria importante sulla strada del mondiale. Emanuele, dai, sì, su. Va bene, ma un cenno, tu volevi qualche notizia in più su Dovizioso? Il telegiornale, sì. Nessuno escluso. Vabbè, adesso telefoniamo ai telegiornali. E qui ne parliamo da 20 minuti, quindi immagino tu sia contento, Emanuele, no, Roberto? Giovanni, però io sono d'accordo con Emanuele, sì, perché purtroppo le due ruote se ne parla sempre troppo poco. Solo Valentino ha avuto la forza di far aprire a noi appassionati la Gazzetta dal verso giusto, cioè dalla prima pagina, perché altrimenti dobbiamo aprirla al contrario. Facciamo prima arrivare alla notizia del motomondiale da dietro che davanti, però devo dire che invece questa mattina era in apertura Dovizioso e il rosso della Ducati, quindi onore alla Gazzetta. E non solo, perché anche gli altri. E non solo, però i media in generale purtroppo... E al di là di Dovizioso, che magari è meno carismatico di Valentino, buca meno, e quindi noi addetti professionisti della comunicazione ci può servire meno rispetto a Valentino, però non dimentichiamoci del Made in Italy di Ducati, che è piccola, ma è un gigante come brand Ma la Ducati è un orgoglio per tutti, noi la raccontiamo volentieri nelle sue vittorie di questa stagione. Grazie Roberto. Grazie a Roberto Ungaro. Poi c'è anche chi dice che le TV non ne parlano perché non hanno i diritti e non vogliono fare pubblicità agli altri, ma io credo proprio che non sia così. 800 24 00 24, c'è chi scrive che il CT della Nazionale dovrebbe rappresentare tutte le tifoserie e quindi Buffon non sarebbe la scelta migliore. Luca da Brescia, io continuo a non capire perché non lo vogliate. Claudio. Sì, buonasera. Vai. E grazie per avermi chiamato. Io volevo parlare proprio di Buffon, sì, e dire prima una cosa, una considerazione, e poi dire altre due cose. La prima è che ho goduto quando la Juve ha perso la finale, soprattutto per Buffon, perché o a causa sua o a causa di voi giornalisti risponde alle vostre domande con ovvietà, luoghi comuni, dispensa consigli quando dice non bisogna arrabbiarsi con gli arbitri, sì, perché questo fa male al calcio. E la seconda cosa, sono d'accordo su quello che ha scritto il vostro, quello di Brescia, il signor di Brescia, quando dice che Buffon è troppo identificato con la Juventus, per cui metà degli italiani non sarebbe assolutamente contento di vederlo. Noi ne abbiamo già avuto uno, Arrigo Sacchi, ad esempio, quando è andato sulla panchina nazionale era molto identificato col Milan e ci ha portato a un rigore da vincere il mondiale. Anche Arrigo Sacchi è un personaggio che ha diviso, ma non per questo non è stato un buon CT. Magari Buffon, io credo sia più un ragionamento tecnico da fare. Se un giocatore smette può immediatamente diventare spendibile per la panchina. Abbiamo qualche esempio positivo, ma ne abbiamo anche tanti che non sono andati bene. Io penso questo, Claudio. Alessandro. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. No, a proposito di Buffon, io sono contrario, ma per un motivo che non è esclusivamente sportivo. Lui un po' di anni fa ha dichiarato di aver comprato il diploma, poi io non ho più sentito niente su questo punto, né smentite né niente. Beh, fino a prova contraria, un CT che dovesse risultare che ha comprato il diploma, anche se in Italia ci sono dei ministri che si dichiarano dottori che non sanno neanche, forse neanche la quinta elementare, però non mi sembra una figura da mettere come CT. Grazie. No, però Alessandro, perdonami, il riferimento lo hai fatto tu. Io credo che si dovrebbe semplicemente fare un ragionamento tecnico più che morale e tante altre cose, no? Un CT no. Un giocatore sì, un CT no. Un CT no, no, cioè no, deve essere no, valutato per... deve avere dei valori di carattere generale, non solo sportivo. C'è chi ricorda che ci sono fior di campioni che amiamo tutti, Alessandro, e che hanno ad esempio avuto problemi con il fisco. E poi i problemi col fisco sono una cosa, a meno che lui non abbia chiarito, io non lo so, in un'intervista a Giancarlo Perna sul giornale. Sì. Vabbè, io per quel motivo sono contrario. Non ti piace? Non lo so, io che i giudizi sommari sulla qualità di una persona mi lasciano sinceramente perplesso, però vedo che l'ipotesi di Buffon CT non scalda, non vi scalda. Abbiamo aperto sondaggio su Twitter, chiocciola tutti i convocati, 66% no. C'è chi ricorda anche tante vicende che hanno interessato Buffon nei primi anni della carriera, anche qualche scivolone, e però stiamo parlando anche di vicende di 15-20 anni fa. C'è chi dice io nella nazionale vorrei Ancelotti, però anche Ancelotti a inizio carriera è stato un personaggio che ha diviso invece che unire, poi dopo è diventato il grandissimo allenatore che è e che tutti vogliamo, ma non sempre la sua parabola è stata quella di un personaggio che ha unito. Ancora un messaggio, 349-238-6666, io non sono juventino, tifo qualsiasi squadra italiana, però le nostre squadre, il problema è che di italiano hanno davvero poco, anche le straniere hanno poco di spagnolo, Real Madrid ha pochissimi giocatori spagnoli, ad esempio, e non per questo in Spagna si fanno un problema, spesso siamo noi a farlo. E poi veniamo anche dal fine settimana in cui abbiamo in realtà scoperto che il calcio italiano ha qualcosa a livello giovanile di davvero interessante, perché siamo reduci dal terzo posto nel mondiale under 20 e siamo alla vigilia di un europeo under 21 che ci vedrà protagonisti. Ci andiamo con una delle migliori nazionali che abbiamo avuto negli ultimi anni in questa specialità. Manfredo da Firenze, Manfredo. Sì, buongiorno. Vai. Buongiorno a tutti. Dunque, ritorniamo sulla Ducati e su Dovizioso e sul campionato mondiale delle moto. Allora, io seguo le moto quando ero un bambino, ho 55 anni, vado a giro moto e sono appassionato, non tifoso. Allora, a me fanno un po' arrabbiare quando stimati giornalisti in una stimata trasmissione adombrano favoritismi da parte della Michelin nei confronti di Ducati. Io non credo che sia stato detto questo, però no, ci state però scrivendo in tanti, ma Roberto Ungaro non ha detto questo, però no, prego. No, pardon. Roberto ha detto correttamente da questo punto di vista che nel paddock girano voci, che è giusto, però secondo me dovrebbe anche cercare di smentirle. Spiego, quando Valentino Rossi fu sverniciato da Stoner, quando Stoner vinse il mondiale, Valentino Rossi disse una cosa che io fossi stato nella Ducati l'avrei denunciato, molto semplice. Lui disse che forse la Ducati aveva da parte della benzina in più perché non poteva andare così veloce. Allora, se uno ha un sospetto di un'irregolarità nei confronti di una marca, non lo dice sorridendo in una trasmissione, ma fa un atto ufficiale: controllate quella moto, per me non è adatta, prendendosi gli oneri e gli onori. Sì, si prende anche tutti i rischi. Perdonami Manfredo, noi riportiamo una voce del paddock, poi più che avere Paolo Ciabatti e chiedere a lui di fare la risposta, io credo che non si possa fare, no? Perché per esempio anche lì quando si parla noi ci si dimentica che Melandri fu mandato dallo psicologo perché non scaldava le gomme. La Ducati vinceva sul bagnato quando tutti gli altri cadevano, probabilmente, purtroppo, dico io, perché io a me va bene anche che vincano tutti, anche non credo nel biscotto, cioè io sono appassionato e basta. Però c'è un fatto: quando la Ducati vinceva sul bagnato, in condizioni di scarsa aderenza. Probabilmente quella moto ha questa capacità, non per niente anche durante il mondiale loro corrono sempre con delle gomme più morbide perché quelle più dure non riescono a scaldarle. Probabilmente, ripeto, io non sono ingegnere. Sì, ma l'abbiamo detto Manfredo e ne abbiamo parlato anche con Paolo Ciabatti, non c'è niente lasciato al caso. Lui ci ha raccontato questo retroscena della prova fatta il sabato per testare oltre i 20 giri come andava una gomma, e quindi probabilmente la spiegazione del finale della Ducati sta lì. Siamo nel finale di trasmissione anche noi. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci ritroviamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.